Essere e benessere di Nicoletta Carbone. 349-238-6666. Buongiorno da Nicoletta, inizio subito a ricordarvi il numero a cui potete inviare i vostri sms, perché intanto che mi mandate un messaggio, scrivetemi quello che in questo momento vi passa per la testa, se è qualcosa di carino, meglio. Guardate con attenzione il vostro cellulare e preparatevi a parlare di lui, di voi con lui, di voi senza di lui, o forse dovrei dire di loro, perché molti di noi di cellulari ne hanno più di uno, ma oggi non ci interessa sapere quanti cellulari possediamo, che ce li ha, lo sa, ma quanto è stretta la relazione con il nostro cellulare, che tipo di relazione è, appagante, rassicurante, discontinua, di interesse. 800 24 00 24, numero che potete fare anche voi con il vostro cellulare, il nostro numero verde, intanto potete chiamarci, ma intanto che lo fate facciamo il gioco della torre. Avete il cellulare, l'agenda e le chiavi di casa. Che cosa buttate giù, che cosa rimane in bilico e che cosa rimane su? Purtroppo non hai genitori perché le sono venuti a mancare. Fosca allunga di 7-8 centimetri il passo perché non si all'unisono col mio. Ma il vestito è stretto. Ti prego, fai qualcosa. Oh, pardon. Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Mi legga i valori. Leucociti? Linfociti? VES? Aia. Allora, mi sospende il trima con 300 e mi prende il l'opposite retard. Una colazione. A presto, mi faccia sapere. Penso convenga chiudere. Fosca Raniero, ma qua in studio con me già sapeva tutte le battute, Stefano Gallarini, no, il nostro conduttore del Riposo del Guerriero. Ciao, che non riposa mai. No, ma infatti, cioè, riposano gli ascoltatori, infatti il concetto è proprio quello lì. No, ridevo per Raniero e Fosca, perché io lo dico spesso scherzando, mi faccia questo, mi prenda questo quando parlo con i miei amici, per cui mi prendono in giro. Senti, tu uno o due cellulari? No, io ne ho uno, ne ho tanti, ma ne uso uno soltanto, rigorosamente uno soltanto. È il tuo preferito. Ne ho tanti perché mi piacciono proprio come oggetti, ma quello è un altro discorso. Senti, ma per te che cos'è? Un amico, un assistente, un guinzaglio elettronico, una copertina? Allora, oggi come oggi, visto che esistono gli smartphone, cioè questi i cellulari che ormai praticamente sostituiscono un computer, credo che sia la quotidianità. Perché il cellulare oggi è tante cose che avevamo una volta. Quando tu andavi in vacanza, per esempio, cos'è che portavi? La macchina fotografica? Sì. I primi navigatori satellitari? No, quelli non li avevo. Tu non ce l'ho, però neanche ora. Esistono, per cui prendevi il navigatore satellitare, poi l'agenda, giusto? E quant'altro, tanti oggetti diversi. Oggi invece lo smartphone è tutti questi oggetti insieme, quindi con un oggetto soltanto noi abbiamo tutto, se vogliamo avere tutto, ovviamente, però possiamo anche escludere, cioè possiamo anche non usarlo per quella cosa lì. Ah, certo, si spegne. Sì, oppure si esclude quella funzione. Certo. Allora, intanto ci ha ascoltato in silenzio il professor Franco Del Corno, insegna psicologia clinica all'Università della Valle d'Aosta ed è socio fondatore dello studio associato ARP, che, caro Stefano, è l'Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, che idea si è fatto del nostro Stefano Gallarini? Ma innanzitutto vorrei fare anche io il gioco della torre, però. Bravo. Allora, io credo che terrei sulla torre il cellulare. Per il motivo che se perdo l'agenda con una telefonata a una segretaria mi faccio ricostruire gli appuntamenti che sono stati perduti, se perdo le chiavi di casa telefono a mia moglie e troviamo il modo di farmi riavere le chiavi o di incontrarci insieme. Questo per dire che oggi io credo che davvero il cellulare sia uno strumento indispensabile, sia nella sua versione più semplice di comunicazione telefonica, sia anche con tutti le applicazioni, i gadget di cui parlava Gallarini, e quindi qualche cosa della quale effettivamente è difficile fare a meno perché ci semplifica e ci facilita molto la vita. Per fare un esempio rapidissimo, se si guardano alcuni film hollywoodiani, ad esempio in televisione, fatti prima che arrivassero i cellulari, si può fare il gioco di vedere che sviluppo avrebbe avuto la situazione se un cellulare ci fosse stato. Trame assolutamente imprevedibili, esiti impossibili nel film così come è stato costruito, ed è un gioco che ci testimonia l'importanza di questo strumento tecnologico. Simone ci chiama subito da Modena all'800 24 00 24. Buongiorno Simone. Sì, buongiorno. Io volevo sottolineare l'importanza lavorativa di questi smartphone, ma poi non fanno tutto loro, nel senso che io ho un collega, Massimo Infantozzi, che anche lui ha l'iPhone, però vedo la differenza tra come lo utilizzo io e come lo utilizza lui, quindi è importante anche saperlo utilizzare. Quindi il cellulare ha sì delle possibilità lavorative importanti in quanto email e quant'altro, e quindi sostituisce tutti quegli attrezzi, però c'è molta gente anche come lui che, non sapendolo usare, quindi qualsiasi cellulare sarebbe buono. Quindi oltre a un discorso di utilità bisogna anche che il proprietario lo sappia utilizzare, quindi dovremmo fare dei corsi di aggiornamento, ecco, per far semplificare l'utilizzo di questi nuovi smartphone. Giorgio, mio amico, ha fatto il tornitore fino all'anno scorso, andato in pensione, e ha sempre avuto come telefonino il Nokia a carbonella, sai, il mattone, quello con i pulsantoni da martellare, e delle volte, quando suonava per rispondere, faceva fatica a trovare il tasto giusto. Ma qual è, io mi chiedo, la molla che in quest'uomo ha mosso il bisogno di dotarsi dell'iPhone 4? È andato, preso scatola del telefonino, è andato a casa, ha aperto, tirato fuori il telefono, l'ha guardato, è tornato dal commesso, ha detto: non ci sono mica i tasti qui, non ci sono i tasti perché è un touchscreen. Ah beh, è un tancrino, allora non è che crescono, signore, l'iPhone 4 è uno degli ultimi moderni touchscreen e basta operare con la mano e vede, appaiono. Sembra le lezioni che fai tu a me. quando gli dico a Stefano, ma qua come faccio? No, è curioso questo passaggio tra l'analogico e il digitale, quindi fra il tasto che si preme e il touchscreen. Comunque sia, c'è un ritorno al vecchio cellulare, cioè quello che serve solo a telefonare e a mandare eventualmente gli sms e nient'altro. C'è questa inversione di tendenza, gli smartphone funzionano, cioè si vendono tantissimo, cioè sono comodissimi, però c'è una fetta di pubblico che sta tornando proprio alla semplicità del cellulare come tout court, come siamo abituati ad avere. E allora noi vogliamo un po' fotografare il fenomeno, le relazioni che gli italiani, non solo gli italiani, hanno con il cellulare, con questo benedetto telefonino di cui io non riesco a separarmi. A proposito, il professor Del Corno si è prestato a fare il gioco della torre, ma in effetti io quando esco da casa non controllo se ho le chiavi in borsa eccetera, ma se ho il cellulare. Io concordo infatti col professore che saluto, intanto sono assolutamente d'accordo con lui. Ma noi vogliamo salutare anche Nicola Procaccio, che è direttore della comunicazione e relazioni esterne Intel Italia e Svizzera. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È curioso che un'azienda che produce processori, sì, che sono il cuore, che sono, senza di loro non avrebbero neanche i cellulari, si occupi un po' delle relazioni, no? Che abbiamo noi con questo oggetto, perché è molto di più di un semplice oggetto. È vero Nicoletta, effettivamente mi fa piacere rispondere a questa domanda che contestualizza un po' il nostro ruolo. Sì, come diceva Stefano, Intel, leader mondiale, produce il microprocessore che è un po' il cervello, il cuore di tutti i dispositivi informatici al mondo. Però non ci pensate solo ingegneri o tecnocrati che stanno lì nei laboratori a studiare le tecnologie più innovative. Pensate che nella Intel, all'interno dei laboratori di ricerca e sviluppo, ci sono antropologi, sociologi, etnografi che studiano le abitudini, gli usi e i costumi degli utenti. Allora andiamo alle abitudini, dottor Procaccio, degli italiani con il cellulare. Guarda, le abitudini, è indubbio, l'Italia siamo il paese del cellulare, siamo il paese dello smartphone. Se tu pensi che praticamente il 40% degli italiani ha almeno un dispositivo mobile, con il cellulare che è irrinunciabile per ben il 93%. Però, ahimè, questa ricerca che noi abbiamo fatto in collaborazione con la RECI per studiare il nostro comportamento, gli usi e i costumi degli italiani con i cellulari, ci ha qualificato non troppo educati, non troppo rispettosi di quello che abbiamo chiamato il bon ton digitale. E se io vado a individuarti quelli che sono stati considerati gli utilizzi e i comportamenti più scorretti al telefono cellulare, ti dico che al primo posto abbiamo scrivere e leggere messaggini al volante, però questo quantomeno ci qualifica come coscienziosi e rispettosi del codice della strada. Poi sicuramente parlare ad alta voce in pubblico, pensa a quante volte vediamo anche nei meeting o fuori per strada coloro che collegati al Bluetooth magari fanno le riunioni o le conference call collegati dal proprio cellulare. Sicuramente le suonerie invadenti e moleste sono non molto apprezzate da quasi la metà, più della metà degli italiani intervistati, per non parlare che tutti hanno reclamato a gran voce l'inaccettabilità del parlare e interagire con qualcuno che magari sta spippolando sul cellulare o mandando messaggini. Però anche se gli italiani sono consapevoli di questo, ahimè, come sempre capita nella nostra cultura, non riusciamo a mettere in pratica, per cui pensa che un italiano su due comunque scrive e legge messaggi quando parla qualcun altro, e ahimè uno su tre quando guida. Ai ai ai ai, lì, molto pericoloso. Noi predichiamo bene e razzoliamo male, lo certo. Sappiamo. No? Tra l'altro il professor Del Corno, a proposito di SMS, ha scritto un libro che io ho avuto modo di leggere, perché i libri che proponiamo li leggiamo sempre, e l'ho trovato molto, molto interessante, molto carino. SMS, straordinaria fortuna di un uso improprio del telefono, l'ha scritto insieme a Gianluigi Mansi, vero professore, ed edito da Cortina. Professore, gli SMS in realtà noi possiamo mandarli quando il nostro corpo fa tutt'altro, noi digitiamo solo, penso ai ragazzini, no? Sotto il, sotto il banco si mandano i messaggini facendo finta di stare attenti. Assolutamente, l'SMS consente una certa indipendenza della mano che sta digitando sul cellulare e del resto del corpo che rappresenta all'esterno un comportamento completamente diverso. E questo effettivamente, appunto, l'esempio dello studente in classe è un esempio calzante da questo punto di vista. Noi non avevamo i cellulari, professor Del Corno, quando eravamo in classe mandavamo i bigliettini. Mandavamo i bigliettini, sì. Diciamo che molto spesso l'uso degli SMS, specialmente in adolescenza, oppure all'interno di vicende amorose che, nonostante gli sviluppi tecnologici, poi percorrono più o meno le stesse strade che percorrevano anche quando i cellulari non c'erano, perché tutto sommato, rispetto a queste grandi emozioni della vita e grandi sentimenti, il comportamento umano non si è così radicalmente modificato. L'SMS è un po' il corrispondente moderno e tecnologico del bigliettino che mandavamo una volta, insomma. Con tutti i problemi. Con tutti i problemi, spesso si sbaglia e si invia la persona, no? Ad un altro, alla persona che magari è oggetto dell'SMS, ma che non dovrebbe ricevere. Sì, quello succede, devo dire, frequentemente. Se parli di qualcuno con un SMS, spesso lo invii a quel qualcuno invece che al destinatario corretto, facendo una bella figura di. Prima di salutare Nicola Procaccio, stiamo facendo il gioco della torre con il cellulare chiave agenda, che cosa butta giù, che cosa conserva, che cosa fa rimanere in bilico? Butto giù l'agenda, faccio rimanere in bilico, qual è il secondo oggetto, mi scusi, ha detto? Chiavi di casa, cellulare e agenda. Allora, agenda, butto giù, chiave di casa in bilico e tengo con me lo smartphone, ahimè. Pensate che io addirittura ho salvato una vacanza con mia moglie a New York, perché dipendendo anch'io totalmente dal mio smartphone, sono stato derubato del mio smartphone il secondo giorno della mia vacanza a New York e vi garantisco, per ben 10 minuti io ho creduto che me l'avesse nascosto mia moglie, invece ahimè me l'hanno rubato. Grazie a Nicola Procaccio per essere stato con noi. Lucia, devo dire che si discosta un po' dal coro, sì, perché tutti si tengono il cellulare. Lei ci scrive: butto il cellulare, poi le chiavi e l'agenda, ogni tanto un po' di silenzio da trilli e musiche varie, è terapeutico. Ecco, però io dico sempre: il cellulare si può spegnere, cioè è questo il fatto. Io mi sconvolge sempre questo, sapere che l'associazione silenzio e tranquillità è associata al cellulare, perché si può spegnere. Io quando voglio stare da solo, io lo spengo, semplicemente non ho nessun problema a farlo, anche per più di un giorno se devo farlo. Ecco, professor Del Corno, ci sono persone invece, io sono tra quelle, che il cellulare non lo spengono mai. Perché tu sei una mamma. Io lo lascio acceso perché la sera, perché le ragazze sono fuori, dico: mamma mia, se mi chiamano. Mio marito ad esempio invece lo spegne e non se ne accorge neanche. Io lo tengo acceso e poi magari lo tengo un po' col silenzioso, ma vado a controllarlo. Ecco, e quali sono i segnali che ci fanno capire che stiamo diventando un po' dipendenti da questo oggetto? Una dipendenza, insomma, non pericolosa, ma sempre una dipendenza. Ma insomma, questo è un po' il problema del rapporto che noi abbiamo con gli oggetti tecnologici e non solo con questi, no? Il primo segnale che ci dice che ci stiamo avviando verso una potenziale dipendenza è il sovrauso, cioè quando usiamo troppo lo strumento strumento tecnologico, in questo caso il cellulare, anche in tutta una serie di situazioni nelle quali potremmo tranquillamente farne a meno. Quello che diceva Gallarini è sacrosanto, cioè i cellulari si possono spegnere. Se io non sono in grado di spegnere il cellulare, evidentemente ho con questo strumento un rapporto un po' particolare che si sta spesso verificando e lo si vede anche nella clinica, tale per cui non sono più io che mi servo del cellulare, ma in qualche modo è il cellulare che si serve di me. Insomma, professore Del Corno sta venendo a prendermi. Non è anche l'apprensione, cioè una persona particolarmente apprensiva tiene il cellulare più acceso rispetto a chi apprensivo non è, cioè credo che sia forse legato anche questo, mi sbaglio? Assolutamente sì, ci sono poi tutta una serie anche di bisogni di controllo, no? Certo. Cioè, credo o mi illudo prevalentemente di controllare meglio il mondo che mi circonda se sono raggiungibile 24 ore su 24. Certo. Questo in realtà non è vero, però credo che dobbiamo anche dire che si trasferiscono in questo uso particolare del cellulare comportamenti che erano agiti nello stesso modo, pur con altre tecnologie, anche prima che i cellulari fossero inventati, insomma. Una mamma di una mia compagna di liceo, allora i cellulari non c'erano, ma aveva i numeri di praticamente tutti i genitori di tutto il liceo perché telefonava ogni quarto d'ora per sapere la figlia dove era finita. Insomma. Allora, quindi tutto dipende dall'uso che ne facciamo, usiamolo bene. Lui si fa davvero in quattro, mille, no? Per piacerci e per esserci. Penso, Stefano, alle molte applicazioni che possono trasformare il cellulare in una sorta di grillo parlante, no? Per ricordare appuntamenti, per svegliarci, ma anche per misurare i passi. Sì, sì, ormai gli smartphone possono permettere qualunque tipo di cosa. Poi adesso sono dotati anche di bussola, sanno contare i passi, hanno una funzione che si chiama accelerometro e quindi capiscono come sono mossi e quindi ci sono moltissime applicazioni legate proprio alla salute in generale, poi che funzionino o meno e che vengano usate o meno questo non lo so, però ultimamente per esempio addirittura è uscito un'applicazione per gli smartphone che crea una dieta in base al gruppo sanguigno, sai che c'è questa teoria, sì. Per cui ecco, stanno cercando di sperimentare qualunque tipo di cosa, certo, poi al di là che funzioni o meno. Al di là che funzionino certo, meno. Giacomo, buongiorno da Milano. Buongiorno. Lei mi parla del cellulare? Sì, io ti parlo del cellulare e sono uno che l'ha avuto proprio appena uscito tanti anni fa, pur non essendo più un ragazzino. Ma volevo solo sottolineare due aspetti. Uno è quello di tipo ansiogeno, come ha detto prima, non so il professore. Cioè, indubbiamente si è aumentata un po' l'ansia, nel senso che chiamo mio figlio, non risponde, cellulare spento, crea un po' una situazione ansiogena e questo non è una delle cose positive, pur essendo tutte le altre positive, però questo crea una situazione spesso d'ansia, perché non risponde, dove sono andato, come mai, eccetera, eccetera, eccetera. Diventa poi, al contrario, se lo spegni tu, la moglie, l'amico, ma dove eri, perché non era acceso, non ti trovavamo, eccetera, eccetera. Ecco, e poi l'altro sul lavoro, io ho fatto l'amministratore delegato per 20 anni di una grossa multinazionale, da quando sono uscito lo smartphone, si sono dotato tutti di questo smartphone, ricevevi tutti gli email in diretta, era diventato tutto di una urgenza mostruosa, no? Quindi si facevano anche un sacco di cavolate, si rispondeva molto spesso mentre salivi in aereo, no, nel finger rispondevi all'email e non c'era riflessione spesso su quello che rispondevi. Quindi questa necessità di che tutto è diventato urgente, secondo me è un aspetto negativo. Tutto il resto, io ne avrò 20 di cellulari, ne uso uno, ma però ogni volta mi aggiorno. Però ecco, per dire come tutto è diventato più ansioso, più ansiogeno. Attiva comunque dei bisogni e delle che magari noi non avevamo, non sapevamo di avere, li risveglia e dà un nuovo passo alla nostra quotidianità. Nel bene e nel male cambia anche un po' le nostre relazioni. Patti, devo dirti una cosa. Ma Silvano, non c'è bisogno che mi dici niente. No, ma davvero Patti, te la devo dire a proposito di quell'SMS. Ma Silvano, non devi vergognarti, è il messaggio più bello che io abbia mai ricevuto in tutta la mia vita, è così dolce, tenero, romantico, poetico e soprattutto... Era per mia mamma. Ho sbagliato a inviarlo, Patti. Ma era chiaro, l'avevo capito benissimo. Si scrive anche per sé, si parla per l'altro. Avere davanti un testo che abbiamo scritto ci rende, oltre che autori, lettori delle nostre parole. La parola detta, pur potente, evocativa, suggestiva, è evanescente. Ne siamo artefici ma non fruitori, se non attraverso il debole riscontro dell'autoascolto. La parola scritta, quando la rileggiamo, ci mette di fronte a noi stessi. E a volte, come davanti a uno specchio, scopriamo qualcosa di noi che ci sorprende. Possiamo utilizzare anche il testo dell'SMS sfruttando questo suggerimento che ci dà il professor Del Corno. Appunto, abbiamo ascoltato un breve estratto del suo libro SMS, straordinaria fortuna di un uso improprio del telefono. Professor Del Corno, il telefono non serve solo per chiamare, ma serve anche per inviare e ricevere SMS. Poi c'è l'attesa, soprattutto ci sono degli SMS che non arrivano mai. Certo. Ma io credo che l'utilizzo degli SMS mediante i cellulari sia stata veramente una rivoluzione importante nella comunicazione fra gli esseri umani, perché ha modificato un medium che era stato creato per portare la voce lontano, in quel caso porta lontano la parola scritta, con tutta una serie di conseguenze psicologiche molto diverse da quelle del telefono tradizionale. Lei adesso accennava al problema dell'attesa, c'è tutto un possibile elenco delle diverse reazioni che si possono avere rispetto al fatto che mandiamo un SMS al quale viene risposto immediatamente, al quale viceversa si risponde con un ritardo, al quale non si risponde affatto, e tutto questo è in grado di suscitare alcune consolazioni che qualche volta possono essere anche molto belle quando riceviamo un SMS di risposta molto in sintonia con l'SMS che abbiamo inviato, oppure possono essere invece condizioni che innescano uno stato di tristezza, qualche volta addirittura di disperazione. Ecco, infatti io insegnerei, cioè bisogna imparare a non rispondere a volte, a spegnere il cellulare, a far capire agli altri che possiamo anche non esserci. Appunto per questo, perché se gli altri sono abituati a trovarci sempre, poi diventa una sorta di dipendenza. Invece è meglio che noi per primi si faccia capire che possiamo non esserci, siamo in grado di spegnerlo, di non rispondere immediatamente a un SMS, a volte perché non vogliamo farlo, ma a volte perché proprio non possiamo farlo in quel momento, e quindi credo che questo aiuti anche gli altri ad avere uno stato d'ansia in meno. Io poi volevo dire una cosa, una curiosità: solo 160 caratteri ha un SMS, anche se se ne possono mandare più lunghi ormai, ma la curiosità è questa, perché erano nati semplicemente per uno scopo tecnico, servivano esclusivamente ai tecnici all'inizio per capire se il servizio stava funzionando o meno. Avrebbero dovuto essere tolti, avrebbero mai dovuto esserci, tant'è vero che i primi cellulari permettevano solo la lettura dei messaggi ma non la scrittura, perché ripeto, è una cosa nata assolutamente tecnica che doveva essere cancellata, invece è diventato poi il business più importante. Willy da Cuneo ci scrive: io sul lavoro manda mia moglie almeno 50 SMS. Vedi? E non so se ha fatto 3-4 telefonate, mi auguro solo 3-4 telefonate e non 34 telefonate al giorno, per sapere come sta la mia famiglia. E noi andiamo a sentire come sta Giuseppe, che ci chiama da Ragusa. 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a voi in studio. Io dico la mia sui cellulari: il primo l'ho avuto nel 94, quando erano dei cellulari abbastanza voluminosi, c'era l'abbonamento, prettamente per lavoro l'ho acquistato, e ancora adesso ne ho diversi, li uso per lavoro. Anch'io so essere assente a volte, non stacco il cellulare, ma principalmente per me è un motivo di lavoro. Ho cambiato le varie versioni perché via via sono cambiate le esigenze, la possibilità anche di mandare una foto, una MMS per esempio, oppure la possibilità di fotografare degli ambienti dove mi trovavo, certo, a seconda dei casi. Ecco, oggi praticamente ho tanti cellulari, ma ne uso alla fine sempre uno, sempre lo stesso, a volte per non stare a cambiare la SIM. Un po' come le borse di noi donne, no? A me piacciono moltissimo ma le in borse, fondo è una borsa, perché e poi alla fine ci poi puoi mettere dentro tutto stessa. Quello che vuoi su invece uno smartphone. Stefano dice che il suo sogno è distruggerlo a martellate appena andrà in pensione. Paolo ci chiama da Roma, buongiorno Paolo. Buongiorno. Volevo portare la mia testimonianza in quanto possessore pentito di cellulare. Io sono stato, come l'ascoltatore precedente, uno dei primi ad acquistare questo strumento, che oggi uso, però direi che me ne sono liberato. Sì. Solo quando sto molto tempo lontano da casa per viaggi di lavoro, eccetera. Credo che sia in taluni casi una dipendenza veramente fastidiosa, veramente invasiva dei rapporti tra le persone. Faccio un esempio di una cena dove molte persone, ovviamente con un po' di ineducazione, sono in grado addirittura di interrompere la normale svolgersi della conversazione per rispondere ad SMS, eccetera. Quindi lei ha dato un taglio, come si dice? Io ho dato un taglio, non uso più il cellulare, sono ancora vivo, lo posso testimoniare, non succede nulla. Non succede nulla, la vita continua, gli amici ci sono lo stesso. Assolutamente. Paolo, grazie per essere stato con noi. Voglio dare il benvenuto alla dottoressa Giovanna Gatti. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. In una duplice versione qua, si autopresenti, perché lei è medico, responsabile della dica lei. Sono medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia, e sono scrittore. Allora, come a Giovanna Gatti medico, il cellulare può aiutare anche la comunicazione tra medico e paziente? Lo fate anche voi allo IEO, lo utilizzate come strumento per ricordare ai vostri pazienti appuntamenti, controlli, eccetera. In qualche modo si crea un po' una relazione che va... Sì, si crea una relazione importante. Noi usiamo molto spesso gli SMS, nel senso che usiamo naturalmente il cellulare quando le chiamate sono urgenti, questo è ovvio, ma di solito gli appuntamenti e tutto ciò che può essere spiegato in modo sintetico e non urgente viene inviato attraverso cellulare con l'SMS, quindi scriviamo per esempio le conferme degli appuntamenti o anche le spiegazioni necessarie per prenotarsi i viaggi attraverso l'agenzia viaggi di IEO passano attraverso SMS. Andiamo invece a Giovanna Gatti, scrittrice. SMS e lettere, due modi di scrittura assolutamente diversi, 160 caratteri, nonostante adesso ci siano anche dei progetti, dei libri digitali, no? dei romanzi scritti via SMS. Dottoressa Gatti, ci racconti, faccia parlare la sua anima di scrittrice. La mia anima di scrittrice non sopporta l'uso del telefono, ma adora la scrittura, quindi a me piace moltissimo scambiare SMS, credo che gli SMS avviene, ma ci sono anche situazioni in cui vero esattamente l'opposto, porto l'esempio della demenza di Alzheimer in cui i circuiti diminuiscono nella loro eccitabilità e quindi funzionano meno bene. Tant'è vero che ci sono una serie di studi in corso che impiegano dei surrogati di emissioni elettromagnetiche simili a quelli dei cellulari, forse come possibili terapie adiuvanti in queste patologie. Professore, nell'attesa e soprattutto nella speranza che vengano finanziate ricerche indipendenti proprio volte a misurare gli effetti dell'uso del cellulare nel lungo periodo sulla nostra salute, vogliamo da lei due indicazioni pratiche riguardo alla durata: non superate i tot minuti. Guardi, i dati che lei ha citato all'inizio considerano utilizzatori assidui coloro che hanno usato per più di 30 minuti sommati tra di loro quotidianamente per almeno 10 anni. Quindi la raccomandazione è quello che potete dirvi a voce a quattro occhi è sempre meglio farlo a quattro occhi. Sì. Quello che dovete dirvi può essere riassunto in genere in poche battute e tutto il resto probabilmente è inutile, quindi telefonate brevi. Queste cose non faranno piacere ai gestori, ma io penso alla salute, non mi interessa molto di altre problematiche. E ogni volta che sia possibile utilizzare l'auricolare, perché allontanare l'antenna dal cervello e quindi dalla testa, dall'orecchio, dalla zona di cervello sottostante aiuta. È sempre il miglior modo per evitare problemi. Allora, prima di salutare i miei esperti, così lo sanno anche loro, domenica 17 luglio il nono volume Racconti d'autore in edicola con il Sole 24 Ore a 50 centesimi in più. Il libro è di Catherine Mansfield, considerata una delle maggiori scrittrici di racconti del Novecento, è intitolato Alla Baia e altri racconti. Io lo prendo, voi prendetelo e poi magari sul nostro profilo Facebook ci commentiamo. Grazie a tutti, ai miei esperti. Devo chiudere, Stefano. Grazie, un bacio. Grazie a tutti. A lunedì. Nicoletta. Essere e benessere.